expect to achieve. Your engine is on. Please fasten your seatbelt. Tantasette 9 in modulazione di frequenza, inizia prove tecniche di trasmissione. Sono le ore 21.07 dunque. Prove tecniche anche per oggi, 5 aprile del 2017. Ricordiamo il contatto telefonico 0649 1750. Il sito internet che è www.ondarossa.info, anche per lo streaming già in questo momento particolarmente frequentato. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Questo spazio ha una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani si potrà trovare la playlist e la registrazione, il podcast di questo programma. Per cui si va a salutare Alessandra qui da Roma, Fabio FK Drone da Londra, come da Londra Gabriel Edvi, Antonio fedelissimo da Firenze, Raffaele Pezzella, il grande Raffaele Pezzella da Napoli, Maurizio Pustinaz da Torino insieme a Stefano of Lawrence, Riccardo Martucci da Taranto. E naturalmente un saluto va alla Nesplay Sounds, questo gruppo di appassionati che spesso si sintonizzano su queste frequenze e con questi spazi. Bene, abbiamo predisposto il tutto e cominciamo dunque con proprio Raffaele Pezzella. Mentre andiamo anche a salutare il buon Enrico Cerrati da Asti e chissà se conosce Wurnus Eileen. È una domanda che gli volevo porgere in privato, ma già che ci sto glielo faccio in diretta. Al di là di questo andiamo ad iniziare con Sonologist, proprio con Nesplay Sounds, un disco che prende oppure dà il nome all'omonimo gruppo testé nominato, un album ritualistico, misterico, pieno di influenze anche futuristiche se vogliamo, con tutti questi campionamenti da documenti NASA, intercettazioni NASA. Da questo album ci ascoltiamo il brano che lo va a chiudere, Sign on Zeit. Abbiamo dunque iniziato con questo progetto italiano ormai noto da queste parti, si chiama Sonologist, del buon Raffaele Pezzella, ideatore e agitatore anche del sito Nesplay Sounds, regno di appassionati di queste sonorità sperimentali, industriali, eccetera, eccetera. Si chiamava proprio Nesplay Sounds, un album, un concept album, imperniato sui cosiddetti rumori del cielo, frequenze sconosciute, captate dall'essere umano e divenute ovviamente motivo di studio, e nel caso di Raffaele Pezzella anche di documentazione sonora alquanto abile. In questa Nesplay Sounds, guarda caso, i suoni inesplorati. Stasera avremo moltissimo materiale proveniente dalla nostra penisola, degli ottimi artisti, musicisti, anche amici adesso all'ascolto che potranno anche sentirsi attraverso questo spazio. Per esempio Riccardo Martucci, anche lui ormai un affezionato, artista proveniente da Taranto. Lui lo conosciamo soprattutto come a Diaspora Psichica. Giunto al suo secondo capitolo dal nome Eprom, un album che racchiude in sé le esperienze per esempio di un Last Mord, di una Anti-Group Corporation di Eddie Newton. È un album che si può anche scaricare attraverso Backcamp in maniera free, quindi un ulteriore incentivo ad apprezzarlo. Ci ascoltiamo Hysteresis, Human Mind e Telema. L'ottimo dunque EPROM di Diaspora Psichica con Riccardo Martucci e Francesco Maggi. Progetto proveniente da Taranto. Un saluto anche ad Emiliano Pietrini da Livorno, H Globo Oscuro, che peraltro sta andando in sottofondo adesso, ma che ascolteremo la prossima settimana. Mentre ci avviciniamo invece a questo lavoro solista del già noto Giovanni Leonardi, leader di Siegfried, di Carnera, di Divisione Sanctus, ed è giunto anche a questa sua dimensione solistica, per l'appunto, con il suo stesso nome. C'è da registrare una differenza rispetto agli album e soprattutto ai progetti testé nominati, giacché qui ci muoviamo in ambito più IDM, più sperimentale, con trucchi, i cosiddetti trucchi glitches, i difetti digitali. L'album si chiama The Alchemist Organizer ed esce per la Old Europa Café, un pezzo di storia della scena industriale italiana. Lo andiamo a conoscere attraverso la quarta e la quinta traccia, ossia Rubedo e Albedo 1. Yeah. Ancora Giovanni Lea Leonardi, salutiamo il buon Luciano FM Genovese, altro artista proprio qui di Roma. E quando si parla di EDM, di Scuola Warp, lui sbuca fuori. Ed è questa l'ispirazione principe di Giovanni Lea Leonardi, ritengo. Ancora una traccia da questo The Alchemist Organizer. We'll be right back. l'ottimo Giovanni Leonardi, che ci spiazza e ci sorprende ancora una volta. Lo ricordiamo come fondatore in quelle splendide avventure che portano il nome di Carnera, Siegfried, più recentemente Divisione Sehnsucht, e adesso anche nella sua dimensione solista The Alchemist Organizer. Un interessantissimo lavoro, uno dei migliori di questo 2017, che va a coniugare, almeno secondo i presenti, ma anche quelli che stanno scrivendo sulla mia pagina, ma anche secondo il sottoscritto, delle atmosfere alla Borzo Canada, della Warp in genere, con accostamenti direi anche alla Coil di John Balance. Uno degli artisti più originali degli ultimi anni, indubbiamente, il buon Giovanni Leonardi da Sassuolo, che salutiamo. Un grosso abbraccio a lui, e ascolteremo questo The Alchemist Organizer anche nelle prossime settimane. Sentite che delizia. Proseguiamo con questa vena, con questa analisi della scena italiana alquanto florida, e lo facciamo con Gerstein di Maurizio Pusternatz. Maurizio ci ha donato questa compilation alquanto accurata, che va a riprendere dei brani anche rari ormai, dal nome 32 Years of Rain. Da questo lavoro ci andiamo ad ascoltare questa track 7 del 1986, seguita da Phlegmaticus, una traccia invece sempre dello stesso anno, il tutto da questo 32 Years of Rain per Gerstein. Ancora Gerstein di Maurizio Pustianaz, storico progetto italiano. Da questo 32 Years of Rain, una provvidenziale compilation, eccola qua, Phlegmaticus. Yeah. come tiene a sottolineare Emiliano Pietrini di Globo Oscuro, effettivamente lisergiche ed oniriche atmosfere pervadono con molto del materiale di Gerstein. Qui Maurizio Pustinaz ha ripreso un paio di tracce dell'inizio carriera, proprio intorno alla metà degli anni Ottanta. Track 7 è Phlegmaticus, quest'ultima in un live dell'86 insieme a Marco Farano, con Marco Milanesio dei Disordini ai mixer agli effetti, come sottolinea proprio lo stesso Maurizio, che risalutiamo in quel di Torino insieme a Artico Culto, Stefano of Florence. Dunque una compilation per festeggiare i 32 anni di esistenza di Gerstein, un altro pezzone di storia della scena italiana. Un bellissimo pianoforte inframmezzato da rumori inquietanti. Una compilation che dunque ci ascolteremo anche nelle prossime settimane, anche lei. Intanto sono le 21:58 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info per usufruire del nostro streaming, il telefono 06 49 17 50. Per un po' abbandoniamo la scena italiana, ma per poco, e ce ne andiamo in Gran Bretagna. Abbiamo recuperato un vecchio lavoro dei Test Department, questo Prove in Action, uno splendido live in questa fase, diciamo, mediana dei Test Dept, che poi sono andati, come dire, in latenza per molti anni e sono risbucati fuori recentemente. Stiamo aspettando con ansia, tra virgolette, il nuovo lavoro. Intanto ci ascoltiamo questa Vogina e The Immigrant da Proven in Action.